La zanzara con Alessandro Milan. Alle 18:38 minuti, cari ascoltatori, eccoci qua. L'Italia è fuori dai mondiali. 800 24 00 24, se volete, come la Corea del Nord, peraltro. 349-238-6666 per i vostri messaggi. La zanzara è radio24.it. Volete sfogarvi, volete dire la vostra, volete fare come Calderoli? Che vergogna, gli azzurri sono ridicoli. Finita questa via crucis della nazionale, ora torniamo a occuparci di problemi veri. Il senatore Stiffoni della Lega: l'Italia dovrebbe tornare in Italia in transafricana, altro che aereo. Il TG2: partita dell'Italia che lascia il mondiale, la Slovacchia va a segno 3 volte, l'Italia segna con Di Natale, Quagliarella, ma non basta, Lippi, mi prendo tutte le responsabilità. La Confindustria: Italia fuori dalla recessione, ma cresce la disoccupazione, continua il duello sui tagli tra le regioni e il ministro Tremonti. Il neoministro Brancher, imputato a Milano nel processo BP, chiede il legittimo impedimento per poter organizzare il dicastero. L'opposizione: ecco la ragione della sua nomina. La Spagna sotto shock, 12 ragazzi falciati da un treno ad alta velocità vicino a Barcellona, altri 10 feriti, andavano ad una festa e hanno attraversato i binari. Ovviamente l'Italia fuori dai mondiali, di questo parleranno tutti. Sentiamo se anche Studio Aperto. È finita, siamo fuori dai mondiali, gli azzurri battuti dalla Slovacchia 3-2, inutile rimonta della nostra nazionale che perde anche l'ultima occasione, lacrime in campo e tanta delusione tra i tifosi. Barcellona, un treno investe una 30ina di ragazzi mentre attraversano i binari per andare ad una festa, muoiono in 12, è stata una tragica imprudenza, dicono le autorità, impossibile per ora dare un nome alle vittime. L'Italia è fuori dalla recessione, a confermarlo è l'ufficio studi della Confindustria, che disegna un paese in netta ripresa. Berlusconi: ora bisogna aiutare le imprese, la Corte dei Conti chiede uno stop agli sprechi. Milano, processo d'appello alle nuove BR, 13 condanne e un'assoluzione, le accuse terrorismo e banda armata, slogan, minacce e pugni chiusi in aula alla lettura della sentenza. Chi ha detto che la monarchia è fuori tempo? Elisabetta prova a dare un segno di modernità. Ed ecco la regina al torneo di tennis a Wimbledon, è tornata dopo 33 anni, più pimpante che mai. Rocco Siffredi nei guai col fisco, l'attore e produttore di film a luci rosse, indagato dalla procura di Chieti, l'accusa è un evasore totale. Qualcuno l'ha sentita ruggire, qualcuno giura di averla vista e a Palermo scatta la caccia alla pantera. Dopo il coccodrillo napoletano, il piranha nel Naviglio, il pitone di Milano è solo l'ultimo esemplare che si aggiunge alle nuove giungle metropolitane tra fantasia e realtà. Wow. Ha segnato l'Italia! Ha segnato Quagliarella! Ha segnato Quagliarella! Dai che ci crediamo! Dai, dai, dai! Dai! Quando chiama Salvini segna l'Italia. Vai Matteo, uno di noi, un italiano vero, vai. Canta Matteo. Quagliarella è un camuno. Quagliarella è un camuno. Era Radio Padania. Così hanno esultato, ma oggi un po' scherzavano, si schernivano, tifavano Italia. Boh, tifavano Italia, chi lo sa. Maurizio Belpietro, buonasera. Buonasera. Direttore di Libero, lei tifava Italia, sì. Italia. Brutta storia questa, eh? È brutta, devo dire, sì. Brutta partita, proprio brutta. Un disastro. Cioè, nessuno, anche ieri commentavano un po' di colleghi in redazione, nessuno insomma pensava a una disfatta del genere, si immaginava che almeno la Slovacchia sapessero batterla. Invece. Sì. Senta, ma adesso l'ha visto già, i leghisti si sono scatenati, no? Calderoli, molli, gelatinosi, strapagati, ora vogliamo i giocatori italiani, basta gli stranieri, Stiffoni della Lega ha detto se ne tornino altro che in aereo, in transafricana, se mai esiste una strada. Che fa, stavano lì pronti? Sì, insomma, non è che i leghisti abbiano mai amato la nazionale. Detto questo, effettivamente forse qualcosa da ripensare c'è. Magari non si tratterà di farli ritornare sulla transafricana, ma almeno di vedere che qualche vivaio, insomma, faccia crescere dei ragazzi, dei giovani che siano capaci di giocare e di fare gol, perché sì. Purtroppo il tema qui mi pare quello di una squadra vecchia, soprattutto, cioè, non c'era nessun vero talento. Comunque Lippi si è preso tutte le responsabilità, adesso vedremo se ci saranno i pomodori. Va bene che si è preso tutte le responsabilità che si doveva prendere, ha scelto contro il parere di Modi che segnalavano tanti altri giovani, insomma, che potevano essere portati, e invece ha portato quello di puntare sull'usato sicuro, invece l'usato si è rivelato una fregatura. Che fa? Titolate su questo domani, direttore? Oppure altre cose? Sì, faremo adesso, non l'abbiamo ancora deciso, ma insomma faremo un titolo su questa. Uno di quei bei titoli provocatori. Uno di quei bei titoli per cui è conosciuto Libero. Allora, non c'è solo il calcio, ovviamente, ma io invito tutti a chiamare sul calcio questa sera chi vuole, eccetera. Però parliamo un pochino di attualità e di politica con Maurizio Belpietro. Oh, la notizia del giorno rischia un po' di passare in sordina, ma la notizia politica del giorno sulla quale sono scatenate già le opposizioni è questa: il neo ministro Brancher ha detto mi avvalgo del legittimo impedimento per il processo in cui è imputato. Ha fatto bene? Ma si era già avvalso, per la verità, di altri impedimenti nel passato, perché avendo impegni di governo aveva già fatto spostare qualche volta degli appuntamenti con la giustizia, quindi non mi pare una grande novità. Però adesso qua c'è la questione, prima magari adesso scatta anche, sì, scatta ovviamente la norma che tutela i ministri, ma se uno si va a riprendere le udienze precedenti, ci sono state diverse occasioni in cui Brancher, pur non essendo ministro, ha detto non posso venire perché sto da qualche parte, o sto all'estero, o sto in missione, o sto da qualcosa. Però l'opposizione dice ecco il vero motivo, è stato eletto, è stato nominato, promosso ministro per questo. Francamente intorno alla vicenda di Brancher ci sono dei contorni un po' poco chiari, perché tutta la vicenda della nomina, del resto lo si è capito quando Bossi ha detto proprio a Pontida che il ministro del federalismo rimaneva lui e non Brancher, perché non si capiva più niente a questo punto di chi avesse la responsabilità, e poi si è capito che Brancher è stato spostato su altro, quindi insomma diciamo che la gestione fatta fra l'altro da alcuni vicini a Bossi, perché almeno dalle indiscrezioni che abbiamo letto, uno di quelli che ha tenuto questa vicenda è stato Calderoli. Allora, direttore, ripartiamo da qui tra un minuto. È stata un po' pasticciata, forse per usare un eufemismo. E allora con Maurizio Belpietro, direttore di Libero. Ecco, direttore, nomina pasticciata quella di Brancher. Dalla maggioranza non si è sentito praticamente nessuna spiegazione certa. Bossi, anche oggi sul legittimo impedimento, dice boh, io non lo so, chiedete a lui. Voglio dire, ma che idea ci possiamo fare che ci sia dietro, se non è quella del legittimo impedimento? Ma certo, lasciano, come ho detto, molti dubbi, perché insomma non si è capito niente di questa nomina. Prima l'hanno fatta senza informare il titolare praticamente del federalismo, quello a cui sta più a cuore, che è Umberto Bossi. E così Bossi è andato a Pontida e ha detto la sua, insomma. Però a farla, cioè a spingere perché si facesse questa nomina, o quantomeno a tenerla a battesimo, è stato Calderoli, che è salito addirittura. Sì, e si è beccato, pare, la sfuriata di Bossi, pare, in discrezione. Pare, sì, sono andati Tremonti e se non sbaglio appunto Calderoli hanno accompagnato Brancher al giuramento. Quindi evidentemente loro sapevano bene perché veniva nominato e come mai. Poi ma che dopo... lei che idea si è fatto, voglio dire, perché... Cioè... Ma l'idea che mi sono fatto è che abbiamo combinato un pasticcio, non so per quale ragione, non so se per il legittimo impedimento oppure per altro, ma certo hanno combinato un pasticcio, perché non hanno fatto, neanche informando appunto Bossi, il titolare della questione, insomma, del federalismo. Adesso infatti lo si sposta, adesso sento parlare di Brancher all'agricoltura e di Galan allo sviluppo economico. Qualcosa evidentemente non ha funzionato e qualcosa non funziona, credo che insomma nelle prossime settimane dovranno dare una giustatina. Senta, ma oggi Libero parlava dei un po' i grattacapi, i mal di pancia di Berlusconi con tutte queste correnti, ma arriva la fine della legislatura secondo lei Berlusconi? Io credo di sì, arriverà alla fine della legislatura, non so come ci arriverà. Il problema non è che arrivi alla fine della legislatura, che mi pare abbastanza scontato, anche perché non intravedo nessun altro che possa prenderne il posto in questo momento. Ma il problema è come ci arriva alla fine della legislatura, se ci arriva logorato, sfiancato dalle liti interne, quella con Fini, se arriva logorato dalle tensioni che ci sono nel governo anche per i tagli e la manovra che sono sotto gli occhi di tutti. Lo scontro con le regioni non è secondario, anche perché molte di queste regioni sono amministrate dal centrodestra. No, sono abbastanza arrabbiate, abbastanza, anche qui per usare un eufemismo. Sì, ma anche all'interno del governo c'è qualcuno che è abbastanza arrabbiato. Mi risulta che insomma nell'incontro di ieri siano volate parole grosse da parte di qualche ministro, quindi evidentemente non è che ci faccia un po' di gossip. No, lo sto già raccontando. Ma di chi? Mi dicono che c'è stata un po' di tensione, insomma. Tra chi? Immaginate tra Tremonti e gli altri ministri, cioè. Tremonti è il difensore della manovra, giustamente deve far quadrare i conti, quindi ha bisogno di fare questi benedetti tagli. Nessuno li vuole fare e quindi alla fine si litiga, e quindi stanno litigando di brutto, da quello che risulta a me. Senta, ma anche questa storia delle intercettazioni, ma lei ci crede? Voglio dire, quando Berlusconi dice 7 milioni e mezzo di intercettati, poi 10 milioni di intercettati, lei insomma è della linea che legge ci vuole, però sono un po' numeri. Io non so se sono 7 milioni, 5 milioni o 10, non ho fatto, certo sono tanti, troppi, tantissimi. Se uno va a vedere quanti ne fanno in Gran Bretagna, capisce che sono troppi. Se va a vedere come si fanno negli altri paesi, capisce che c'è una tutela diversa. Cioè non è una legge per la casta? Da noi è fatta, no, non è solo per la casta. Però il problema non sono neanche le intercettazioni, il problema vero sono le indagini. Le indagini dovrebbero essere fatte con la segretezza. Cioè, dopodiché, quando avete accertato i reati, li condannate e li fate processare. Invece da noi succede il contrario, da noi succede che i processi si fanno quando si muovono le indagini, finiscono sui giornali, si sa tutto sui giornali. Dopodiché non si fanno i processi veri, passano anni, finisce tutto nel dimenticatoio oppure in prescrizione. Risultato, il delinquente gode di tutti quanti i benefici, ovviamente. La persona innocente è stata sputtanata per un certo periodo di anni, e questo non è giustizia, è un'altra cosa. Anche se non si sa nulla dell'indagine, ma a me cosa importa di sapere che quello ha telefonato? A me importa di sapere se è colpevole, e se è colpevole che stia in galera. Solo alla fine, ma lei, perché lei non è andata alla manifestazione, quella con tutti i direttori? C'era anche Feltri. Feltri evidentemente ha opinioni diverse dalle mie. Sì. Io continuo a pensare che si fa un uso distorto, ma diciamoci la verità, i direttori vanno a fare le manifestazioni, parlano, ma non perché abbiano a cuore chissà che cosa, hanno a cuore le loro tirature, siccome le intercettazioni fanno vendere, perché è il gossip giudiziario pubblicato sui giornali che fa vendere, lo so perché l'ho fatto anch'io, e finché nessuno me lo impedirà continuerò a farlo. Se domani mattina mi arrivano delle intercettazioni lo faccio, perché il mio mestiere è vendere i giornali. Se poi qualcuno mi dice che non è più possibile, benissimo. Io non credo che le intercettazioni siano utili ai fini di giustizia se sono pubblicate sui giornali. Credo che siano utili, e trovo sbagliato per esempio porvi il limite dei 75 giorni, perché quella non ha senso, siano utili per le indagini, ma devono essere assolutamente coperte dal segreto. Ancora un paio di domande. Così come tutti gli altri degli atti dell'indagine. Se questo non avviene, cioè è un'altra cosa, è come se domani mattina decidessimo appunto di dare grande pubblicità a fatti che magari non sono ancora penalmente accertati, sappiamo che fare un danno a qualcuno. Per un paio di domande. Anche perché se quello poi è innocente l'abbiamo comunque abbiamo distrutto la sua immagine pubblica. Le chiedo, Belpietro, quella foto di Saviano sull'obitorio lei l'avrebbe pubblicata? No, non l'avrei mai pubblicata, anche perché è un fotomontaggio, persino di cattivo gusto. Cattivo gusto. L'ultima cosa, la partita l'hanno vista lì a Libia. Adesso io sono uno che ha difeso Saviano sul proprio giornale, sul Libero, perché, ma non ora, quando è stato criticato anche da altri. Saviano è uno scrittore, ha fatto bene uno straordinario libro, è bravissimo, ha fatto le sue cose. Naturalmente la guerra alla camorra l'hanno fatta i magistrati e le forze dell'ordine, perché questo lui ha avuto solo il merito di denunciarla, l'ha denunciata pubblicamente, ha un grande merito di averlo denunciato. Dopodiché la guerra l'hanno fatta quelli che l'hanno messa in galera prima che si scrivesse il libro. La partita l'avete vista lì a Libero o c'è stata la linea Brunetta? Brunetta si lavora? No. Guardi, io l'ho vista sul mio schermo, diviso a metà. Sì. Da un lato, sullo schermo intendo dire il computer, da un lato guardavo la partita, dall'altro scrivevo. Ah, vabbè. Grazie, quindi Maurizio. Credo di aver fatto entrambe le cose, doppio lavoro. Pubblico, e quindi non rispondo al ministro Brunetta, però credo di aver fatto, di aver rispettato comunque il contratto di lavoro. Va bene, grazie Maurizio Belpietro, direttore di Libero. Ovviamente vedremo domani questo titolone sull'Italia, vedremo. La Zanzara. 19:17 minuti, siamo ancora in diretta con la Zanzara. 800 24 00 24. Dai, sfogatevi contro l'Italia. Contro l'Italia nel senso della nazionale. Dite la vostra, colpa di Lippi, non colpa di Lippi, allenatori, giocatori strapagati o che c'entra? Troppi stranieri a giocare nelle nostre squadre o che? Anche di questo, se volete, parliamo. Brucia ancora l'eliminazione. Il TG3. Altro che partita della riscossa, l'Italia di Lippi perde 3-2 contro la Slovacchia ed è fuori dal mondiale sudafricano. Dopo lo scontro con Tremonti sui tagli, le regioni chiedono a Berlusconi un incontro e contrattaccano ai servizi per i cittadini, ci pensi lo Stato. L'Italia fuori dalla recessione, dice Confindustria, ma la disoccupazione crescerà e senza evasione fiscale, tasse e contributi giù del 16%. Il neo ministro Aldo Brancher invoca il legittimo impedimento nel processo Anton Veneta, devo organizzare il ministero, dice. Parziale bocciatura della Corte Costituzionale alle ronde, possono chiamare la polizia se assistono a un crimine ma non intervenire in caso di disagio sociale. Appello di Save the Children per la carestia in Niger, se non si interviene subito nelle prossime settimane moriranno 400.000 bambini. I Beatles per la prima volta in Italia 45 anni fa, il concerto di Milano ripreso solo da video amatoriali, nessuno ripreso sul serio, oggi a Marcorda al Pirellone. Anche i Beatles nei titoli, ora Sky TG24. Figuraccia, Italia perde 3-2 con la Slovacchia e lascia il mondiale sudafricano. Lippi, mi prendo tutte le responsabilità della sconfitta, mi dispiace da morire. Tifosi attoniti e inviperiti nelle piazze del paese, tutta la delusione degli italiani. Manovra regioni con l'acqua alla gola, pronte a restituire le competenze allo Stato. Per l'Istat disoccupazione al 9,1%, record dal 2005, Confindustria, Italia fuori dalla recessione. Federalismo, la Corte dei Conti avverte, può far esplodere la spesa pubblica. Stallo dopo il referendum a Pomigliano, Sacconi a Sky TG24 boccia il piano New Company. Primo atto del ministro Brancher, invoca il legittimo impedimento nel suo processo. Blitz anticamorra contro il clan Longobardi Beneduce, in manette 84 persone. Barcellona, il treno dell'alta velocità falcia agli studenti, 12 morti e 15 feriti. E allora potevamo farci mancare un bel ascolto di Radio Padania per la partita, l'abbiamo monitorata. Radio Padania, sentiamo un po' di blob. Io tifo per una cosa sola e basta. Inizia. Ma è una roba volgare? No, insomma, è di quattro lettere, non so. Come la Lega. Va, la Lega. Sto guardando la Slovacchia contro la casacca azzurra, adesso aspetta che dico. Ciao fratelli padani, ho appena ricevuto un cazziatone da Bassignano di Rai Radio 1 perché ho tifato per la Slovacchia. Oh, cioè non si dicono, c'è certe cose che vi arrestano. Dire niente a nessuno. Vi arrestano. No. Mi fai commentare questo corner per i secessionisti slovacchi? No, vergogna. No, non è vero. Non parla secessione. Gente di poca fede. A me dell'Italia non me ne frega niente, per il semplice fatto che continuano a dire di essere nazionalisti e i signori politici ce ne inchiappettano senza la vaselina. Senti Marco, qua è un disastro, sta vincendo la Slovacchia. Oh. Ascolta, io sto godendo come un mazzo. Taglialo! Razzista! Provocatore! Depressore del sentimento provocatore! Nazionale. Antiunitario! Evasore fiscale, ecco. Pure! Sono Mauro, buona Italia. Stiamo perdendo, ragazzi. Sono veramente triste. Per fortuna che la Padania invece è campione del mondo. Forza Padania. Notti magiche. Ricordate cos'era il 90 in Italia? Ma che notti magiche! Qua la Radio Padania, avete sentito, e forse non era neanche il meglio del meglio, forse era censurato e censurabile il meglio del meglio, chi lo sa. Invece incredibilmente non hanno censurato, non censurano Linda Santaguida, che a fianco a Costanzo e Galeazzi ci allieta così, e paghiamo il canone anche per questo. A proposito di calcio, esperti antidoping, occhi aperti sul Viagra. Sì, avete capito molto bene, si sta parlando della pillola blu, anti-impotenza. È diventato blu lo studio. I suoi effetti. Per chi la usa? Io. I suoi effetti. Ancora. Zitto e attento. I suoi effetti sarebbero infatti esplosivi non solo in camera da letto, ma anche in campo. Il Viagra. Quel sogno che comincia da bambino. Ebbene sì, paghiamo il canone anche per seguire questi dopo partita serali, notturni. È mancato il Viagra evidentemente ai giocatori italiani, perché ha effetti benefici anche in campo. Vabbè, parlando di notizie di attualità, avete sentito, il neo ministro Brancher si avvarrà del legittimo impedimento scatenando l'opposizione. Ecco perché è stato scelto a ministro. Brancher ha detto: non ho nulla da rimproverarmi. In apertura avevamo il direttore di Libero Maurizio Belpietro, che su questa scelta di Brancher, una nomina che peraltro ha giudicato anche lui molto pasticciata, confusa, non si capisce perché sia stata fatta, sul legittimo impedimento ha detto questo. Ma l'idea che mi sono fatto è che abbiamo combinato un pasticcio, non so per quale ragione, non so se per il legittimo impedimento oppure per altro, ma certo hanno combinato un pasticcio, perché non hanno fatto neanche informando appunto Bossi, il titolare della questione, insomma, del federalismo. Questo Belpietro, che comunque ha detto fa bene, e poi insomma si avvaleva del legittimo impedimento anche prima in udienze precedenti, opponendo alcuni impegni governativi quando era sottosegretario. Oggi la politica ha parlato poco, c'è stata una votazione durante la partita, tra l'altro, delle fondazioni liriche, quella per cui l'Italia dei Valori ha fatto ostruzione durante tutta la notte. Di Pietro si è addormentato sui banchi del Parlamento, le accuse, stiamo qui, non vi facciamo vedere la partita. Casini ha detto: ma a me della partita non me ne frega niente. Mentre Berlusconi ha parlato così su internet, rispondendo a qualche suo fan, a qualche suo sostenitore. Per esempio, la legge sull'articolo 41 per la libertà di impresa. È tornato su questo a dire che cosa? Stiamo lavorando a una nuova legge, che già qualche ministro ha chiamato, bontà sua, la legge Berlusconi, per realizzare in tempi ridotti la vera libertà d'impresa. La libertà d'impresa. E poi sentite, Berlusconi è tornato a parlare di questo articolo 41 della Costituzione. Non è la prima volta, ma insomma, quando poi martella sui temi li ripete giorno dopo giorno, e oggi è tornato su questa cosa della Costituzione, come è nata la Costituzione. La politica italiana è stata dominata da una cultura comunista e cattocomunista, per la quale chi si assume la responsabilità e il rischio di prendere un'iniziativa in proprio, di fare l'imprenditore, è un potenziale sfruttatore, un potenziale evasore, un potenziale truffatore. E questa è la visione che ha ispirato l'articolo 41 della Costituzione, che noi vogliamo modificare. Avete sentito? Berlusconi, perché modificare l'articolo 41? Vabbè, se volete possiamo parlare anche di Pomigliano, della Fiat, ancora tutta l'incertezza che c'è. Per esempio Bersani del Partito Democratico, un Partito Democratico che peraltro è un po' su questo non unanime. Rosi Bindi ha detto oggi in un'intervista a Repubblica: non hanno vinto i signor sì, sono contenta. Sentite invece Bersani come si rivolge alla Fiat, al dovere di mantenere secondo lui gli impegni. Poca arroganza, per favore, che la situazione è delicata. Lo dico prima di tutto al governo. Il governo dia una mano. La Fiat rispetti i patti. Si è detto Panda, è Panda. questo Bersani. E infine voglio chiudere con Dario Fo, Dario Fo, Redivivo, sulla cultura, i famigerati tagli alla cultura. Beh, siamo in un momento di grande crisi, non soltanto per quanto riguarda i problemi finanziari del lavoro, c'è quello della scuola per esempio, che è stata massacrata totalmente, hanno tolto i sostegni, e poi non parliamo dell'arte, distrutta la musica, distrutti i grandi enti che sviluppano da tanto tempo la conoscenza musicale, l'architettura, e non parliamo poi del teatro e la pittura, proprio una distrazione e un disprezzo quasi. Mi prendo tutte le responsabilità, tutte, nessuna esclusa. Ebbene sì, tutte le responsabilità se le prende Marcello Lippi. 800240024, c'è anche Carlo Genta con noi qui. Carlo, eccoci, oggi li facciamo entrare, uscire, ma oggi si parla d'Italia, eh? Sei qua, ascolta con noi Carlo. Marco da Cosenza, buonasera. Pronto, buonasera. Che dice, arrabbiato? No, io veramente dovrei essere arrabbiato con qualcuno che ha detto che l'Italia si comprava la partita. Se la partita forse se l'avranno venduta. Addirittura. E vorrei capirlo. Era meglio comprarsela. Dovrei informarmi dal signor Bossi, perché lui ha... Ma c'è la crisi, c'è pochi soldi, volevano, come facciamo a comprare? Costava troppo. Costava troppo. Come facciamo? Marco, grazie. Come facciamo a comprarci la partita? Costa crisi. Costava troppo la partita, Alessandro. Anche nel girone più scarso del mondiale. Marco, classifiche FIFA alla mano. Marco, dovevamo fare una colletta, che dovevamo fare? È proprio terribile, è proprio, mi creda. Poi se andiamo a vedere, ce ne fosse uno acculturato nella Lega, ce ne fosse uno. Io per esempio posso dire, no, veronese, prendiamo un veronese. Ma chi sono questi della Lega? Ma chi sono? Chi è veronesi? Che vuol dire veronesi? Veronesi non lo sa lei chi è. Grande luminare. Ma chi? Ah, professor Veronesi. Veronesi. Cioè, sì. Dice a confronto di questi della Lega. Il no, professor... per carità. Lo mette a confronto positivamente lui. Sì. Va bene, e Marco. Invece un po' negativi. Non c'hanno la cultura, va bene. Questi della Lega sono gentarella di bassa estrazione che vengono fomentati da chi? E da chi? Me lo dica lei. Da un Bossi che cos'è? Che cos'è? E che la cultura ha Bossi? O chi gli sta vicino? La cultura della Lega. Va bene, avete sentito, il clima, sì, Carlo? Mi sembra siano anche troppe domande in questo. Tira in bell'aria. Tira bell'aria. Amato da Campobasso, buonasera, arrabbiato? Ciao, buonasera. Eccoci. Eccoci qua. Che dice? Che voglio dire? Voglio dire soltanto questo. Ha detto il nostro mister Marcello Lippi che si prende tutte le responsabilità di quello che è successo. È molto comodo, è molto facile, è molto bello prendersi responsabilità, però cosa lui paga, cosa lui rimette? Nella mia attività lavorativa, se io avessi fatto un errore del genere, voglio paragonarlo al suo, avrei bloccato un ente pubblico. E che dobbiamo fargli pagare, secondo lei? No, multa. Quanto? La multa di quanto? 5 milioni di euro. 5 milioni di euro. Accidenti, eh. No. Sai, posso dire una cosa? Siamo tutti spiazzati perché lui, perché Marcello Lippi se n'è andato prima del mondiale, è arrivato Prandelli prima del mondiale, e questo ci ha disarmati tutti quanti, perché sennò adesso era facile. Non possiamo, no? Più, mi sa, Amato, mi sa che se li ha presi i soldi, che possiamo fare? Vabbè, ok, diciamo che se li ha presi. Però comunque così rimane sempre troppo comodo, rimane troppo comodo, perché io al suo posto avrei perso il posto di lavoro, e siccome io non ho preso i 5 milioni prima, sarei in mezzo a una strada adesso. Vabbè, dovremmo dargli una bella multa. Oh, Carlo, qui... Lui l'ha già perso, sì. L'ha già perso, e noi siamo spiazzati, perché di fronte a questi eventi È chiaro che chiediamo la testa dell'allenatore. La testa dell'allenatore è già caduta. Però Calderoli ha detto strapagati, molli, sti giocatori. Che palle. Che palle queste cose qui. I giocatori guadagnano troppo è una delle cose più banali, più classiche, banali e un po' stupidotte che vengono prodotte dalla demagogia italiana, perché i giocatori guadagnano tanto perché possiamo rispondere, fanno guadagnare tanto anche quando perdono un mondiale. Quando poi lo vincono arriva l'uccellino, l'acqua minerale, la Nutella, la vendita delle magliette, i diritti televisivi, eccetera. Queste cose vanno inserite nel conto, quindi io lascerei stare quello che guadagna il giocatore, che è uno degli argomenti più barbosi che si possono produrre in questo momento. Vediamo un po'. Pasquale da Genova, buonasera. Buonasera, sono deluso, mi dispiace gente, sono d'accordo con Calderoli per una volta. È d'accordo con Calderoli? Per una volta sì. Oh, sono strapagati. No, ma hanno poca voglia di... Ma oltre che hanno poca voglia di giocare, non si può pretendere di fare una nazionale in due mesi. La nazionale si devono mettere in testa che bisogna veramente, non so, non si capiscono, non hanno un passaggio. Se guardiamo l'Argentina, conoscono il gioco a memoria, il gioco in un'altra modo. La qualità è questa, voglio dire. No, ma comunque non meritavamo, secondo me, di andare agli ottavi di finale. Certo che no. Non abbiamo vinto neanche una partita, dica. Ecco, su chi vuol dire? Su Brancher. Ah, su Brancher. Il ministro del legittimo impedimento, no? Un altro ministero inutile, lei fatto intende perché ha parlato, ha fatto anche le trasmissioni, ministero inutile per l'attuazione del federalismo, veramente un'assoluta. Veramente hanno cambiato la dicitura, credo, perché Bossi si è un po' arrabbiato, dice al federalismo ci sto già io. Infatti, no, perché c'è quello del ministro per l'attuazione del programma che è inutilissimo, veramente non so, anche se ci vuole un ministro per attuare un programma di governo, va bene. Adesso non ha messo un altro, possiamo anche chiamarlo ministro sorpresa, non lo sapeva neanche la Russa, oltre a Bossi, quindi... Veramente siamo alle comiche, è una vergogna. Ma la cosa più scandalosa è che anche l'opposizione, oltre diciamo a parte Di Pietro, non ha detto quasi nulla. Un po' di dichiarazioni, se le è perse. Magari Di Pietro sbraita di più e si fa notare di più. No, io ascolto, guardi, Radio 24 l'ascolto tutto il giorno, quindi non è che anche Radio Radicale, sentivo anche oggi in Parlamento, che ancora un po' l'opposizione ce l'ha con l'opposizione di Pietro. Siamo veramente le coniche. Comunque guardi Pasquale, domani mattina tra l'altro alle 8:30 ne parleremo, il nostro sondaggio, il ministro Brancher che chiede il legittimo impedimento, secondo voi ha fatto bene oppure no? Domani Mariella, no, voglio andare prima di Mariella un attimo, voglio andare a Davide dalla provincia di Pavia. Buonasera. Sì, buonasera. Ho sentito l'intervento di prima, mi fa piacere che Lippi si pigli tutte le responsabilità, sì. Ma le responsabilità non sono di Lippi. Lippi ha fatto, si è divertito a spese nostre, va bene, tanto poi lui non gliene fregava più niente perché se ne andava via. Si è divertito, si è divertito un po'. E chi ha messo questo arrogante presuntuoso, che è secondo solo a Domenech, a capo di questa nazionale e gli ha permesso di portare 7 giocatori di una squadra perdente che si sapeva benissimo essere alla frutta a dover pagare, parlo del signor Abete e di quelli che il presidente della Federcalcio, cioè quello, allora, no, la ringrazio Davide, è interessante vedi, con Carlo Genta, cioè Lippi arrogante e presuntuoso come Domenech 4 anni fa era glorificato, è bello, il calcio è così, lo sport è così, no, dagli altari alla polvere, è bello. È il suo bello, no? Fa parte del gioco. 4 anni fa sempre un po' arrogantello, è sempre un po' ma stato sì, Lippi, no? Ma è un grande allenatore al di là di quello che adesso possiamo dire sputazzando rabbia, però è un grande allenatore, certamente ha fatto le sue scelte, la responsabilità era sua, le ha sbagliate, se l'è presa tutta, mi sembra che il discorso finisca per quadrare. Al di là di tutta la dietrologia che si può fare sui suoi legami juventini, sul suo passato e così via. 4 anni fa era andato campione del mondo, oggi è il peggiore di tutti perché è uscito al primo giro in un girone che era il più scarso del mondiale. Ma poi insomma qualche scelta, vabbè, adesso Balotelli, Cassano, ma non è che poteva... infatti, voglio dire, l'Inter che ha vinto tutto è tutta di stranieri, a parte appunto Balotelli, a parte qualche altro giocatore, che questi grandi fenomeni, a parte forse un paio che c'erano, non è che abbiamo dei grandi fenomeni in questo momento. Si diceva oggi, l'Italia ha 3 giocatori di classe internazionale, probabilmente sono De Rossi che ha giocato una partita pessima, Chiellini che ha provato a tenere in piedi tutta la difesa da sole, comunque reduce una stagione orrenda con la Juventus, e boh, non, boh, il boh, terzo già ce lo siamo perso. Il terzo ce lo perdiamo nella nebbia, anche perché probabilmente non è così di classe internazionale. Ovviamente Pirlo e Buffon, ma sono giocatori. Buffon oggi sì, non c'era, Pirlo era rotto, Buffon neanche, vabbè. Luciano da Padova, buonasera. Buonasera a tutti i vostri ascoltatori. Nica. Niente, io sono uno di quei ignoranti leghisti che ancora adesso stanno cercando di tenere su le imprese che pagano le tasse e che mantengono tutta la nazione. Ce io l'ha per esempio oggi ho fatto 10 ore di lavoro, me ne pagano 8, forse meno. Ce l'ha col nostro comunque amico. Comunque le imprese chiudono e se ne vanno all'estero, perché io sto girando tutto il Vicentino, il Trevigiano e il Bellunese. Gli imprenditori chiudono, portano le aziende all'estero. Ce l'ha col nostro rimangono in casa integrazione. Luciano, mi sente? Mi sente? Dell'Italia, sinceramente, a questo punto. Non mi giocatori strapagati che si fanno battere da operai islandesi, sinceramente, da lì dobbiamo partire. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Cioè, non è possibile che gli operai delle fabbriche battano dei campioni miliardari. Gli operai, magari, operai. Gli slovacchi sono operai delle fabbriche, AMSIC, operaio della fabbrica. Non so quanto guadagna AMSIC a Napoli. Non lo so, un paio di milioni di euro. Ma dei soldi che noi non guadagneremo mai. Operai, no, non sono proprio operai questi slovacchi, sono solo slovacchi, ma non, sono giocatori professionisti. Grazie comunque, Luciano. Pasquale dalla provincia di Bari, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Sì, volevo intervenire sulla questione della partita di oggi pomeriggio, di stasera. Il mio pensiero per quanto riguarda l'atteggiamento dei giornalisti nei confronti del mister nazionale, primo. Poi un leggero intervento eventualmente sulla questione della Lega. Dica, dai, la Lega, veloce, lo faccia leggero. Che vuol dire leggero? No, ci va laggiù pesante se vuole, non pesantissimo. No, vabbè, ma secondo me sono diciamo pensieri che lasciano il tempo che trovano, perché effettivamente sono, ma quali? Quali? Cadono nel proprio nel, ma nel, quali? Nello sconforto, quali pensieri? Nello sconforto, la partita totale, ma qua di Pasquale fare, mi sente oppure no mi sente oppure no, quali pensieri? La partita da comprare, poi ha chiesto scusa, quali pensieri fanno cadere nello sconforto? Il fatto di comprare la partita, è stato dimostrato che non compriamo nulla, vabbè, dire. Ma ha chiesto scusa, doveva andare al Quirinale, quindi ha dovuto chiedere scusa. Pasquale, la ringrazio, devo andare un attimo. Carlo, per il momento ti libero, dobbiamo dire qualcos'altro. No, tanto poi continuiamo di sera, sì, continui anche tu, no? Dalle 9 alle 11. Poi se vuoi più tardi entra, che magari ti facciamo qualche sorpresa, stiamo cercando di contattare qualche leghista, leghista. Li chiameremo, li staneremo e li faremo dire cosa ne pensano di questa partita. E allora 19:45 minuti, siamo qua, 800 24 0024. Ecco Mariella, sono da lei. Buonasera, da Trieste. A ecco. Lei e a tutti gli ascoltatori. Senta, io avrei una domanda da fare a lei, sì, ma mi risponda per favore. Esiste ancora la decenza in questo paese? Sa perché? Mi riferisco al fatto di Brancher. Io trovo che è una cosa di un disgusto eccezionale. Questa persona, tra l'altro, io leggevo da qualche parte, prima era prete, dunque dovrebbe essere una persona morale. Poi si è spretato e si è sposato, ma non sono affari miei. Vabbè, questa è una adesso, vicenda naturalmente, personale. No, ma io parlo dell'estrazione cattolica. Uno che è di estrazione cattolica dovrebbe andare a farsi processare. E sa che cosa farei? E non mi dica che sono giustizialista, io li processerei tutti in contumacia, mi creda. E non mi dica altre cose, perché è una cosa indecente. Ma guardi Mariella, grazie. Se posso, se visto che mi ha detto, le faccio una domanda, se vuole posso dare anche una risposta. Io dico, è sicuramente una nomina misteriosa, un po' misteriosa, pasticciata, la chiami come vuole, non si capisce bene perché sia stato promosso a ministro. Il dato di fatto vero è che prima di essere ministro era sottosegretario, e anche da sottosegretario ha sempre opposto degli impedimenti di governo anche in udienze precedenti. Quindi adesso certo c'è il cappello del legittimo impedimento che gli permette da ministro di far sospendere per il momento il processo. Sospendere, non è che Mariella, non è che il processo viene cancellato, però certamente c'è qualcosa di strano. Insomma, anche Maurizio Belpietro in apertura ce l'ha detto. Voglio chiederlo. Magari partiamo da qui e voglio salutarla. Mercedes Bresso, buonasera. Buonasera. Eccoci qua, presidentessa del Comitato delle Regioni per l'Unione Europea, è stata presidente della Regione Piemonte. Vogliamo partire da qui, poi parliamo delle cose per le quali l'abbiamo chiamata, questa di Brancher. Sì. Cioè, lei che dice? Ha capito dal suo punto di vista perché è stato scelto a ministro? No, questo francamente no. tutti, se ho capito bene, anche perché Berlusconi mi sembra cambiare idea molto sovente, però tutti si aspettavano una promozione di Galan sostanzialmente, e non si è capito perché sia stato nominato questo signore. Non si sa. No, non si sa. Poi sulle cose che diceva la signora, penso che abbia ragione, insomma, forse bisognerebbe cercare di scegliere delle persone che non abbiano dei conti aperti con la magistratura. Per carità, naturalmente tutti sono innocenti fino a quando sono condannati, però. A proposito di magistratura, ma in questo caso non magistratura, il TAR, il primo luglio, per ora è un po' sotto traccia sui giornali, ma il primo luglio il TAR del Piemonte si dovrà esprimere sulla legittimità delle ultime elezioni regionali, sì, e che ha portato alla vittoria della Lega e di Cota elezione. Lei ha fatto questo ricorso perché ha fatto questo ricorso? Cioè sulla base di cosa? Sì, ma i ricorsi sono due in realtà. Uno, e non sono solo io, anzi io, forse lei lo sa, da uno ho ritirato la firma perché venivo accusata di essere una persona che non sapeva perdere, quindi si è fatto un accordo, io ho detto io ritiro, peraltro l'ho ritirata, ma nessuno finora ha accettato questo ritiro, quindi non so se l'ho ritirato o no. In ogni caso c'è un ricorso di contro tre liste, e uno che è penale, quindi c'è una denuncia penale e relativo ricorso amministrativo contro un'altra lista. Quindi quello penale, che non ho, su cui la mia firma continua ad esserci, riguarda una lista che ha su 19 firme, sì, l'unica firma che sembra risultare corretta è quella del capolista, che è quello anche che ha autenticato le firme. Cioè ci sono delle liste che hanno portato i voti, erano apparentate Cota, hanno portato i voti e che erano, avevano, diciamo, taroccate. Una era una finta lista verde, una era una finta lista pensionati, che anche è quella che ha anche ricorso penale, e poi altre due erano una finta lista consumatori e una era l'ex capogruppo dell'UDC che si è autorizzato, pur essendo espulso, a presentare la lista. Però qua il primo luglio il TAR si dovrà pronunciare, ma sai che Cota ha promosso una grande manifestazione, sfileranno lunedì prossimo, hanno parlato di golpe sudamericano. È curiosa questa cosa. Lei vuole rubare le elezioni? Io non voglio rubare niente, intanto credo che sia un fatto di legittimità democratica. È curioso manifestare contro un tribunale che non si è neanche ancora pronunciato, vuol dire che lui stesso sa di essere in colpa, cioè sa che le probabilità che il tribunale metta in chiaro che ci sono state delle cose non corrette sono elevate, se fa già una manifestazione. Francamente trovo curiosa la manifestazione preventiva, mi pare che sia il caso di aver fiducia nel tribunale amministrativo, c'è tra l'altro la possibilità poi di ricorso al Consiglio di Stato, quindi sì, ma l'idea non siamo è dire, di fronte a golpe. No, però l'idea è dire ha perso, Mercedes Besso magari se la prenda con i grillini, cosa che ha già fatto, se la prenda con chi non l'ha sostenuta, se la prenda con chi non l'ha votata. Ho avuto 9.000 voti in meno, se di questi 9.000 voti in più che ha avuto Cota ce ne sono però 80.000, circa 78.000 per la precisione, che sono stati ottenuti con l'inganno degli elettori, questo lo valutino prima di tutti i magistrati, perché intanto dobbiamo attendere di sapere se i ricorsi sono considerati validi. Però lei è fiduciosa, mi sembra che anche i giornali dicono, è abbastanza dai rumors, è abbastanza certo, insomma, che ci sia stato qualcosa che non andava. Forse... In particolare questa, la cosa che è uscita, perché sui ricorsi amministrativi ovviamente sono valutazioni dei giornalisti e di giuristi a cui i giornalisti hanno chiesto pareri, invece in quello penale è già uscita la notizia che c'è la richiesta di rinvio a giudizio per sarebbero false 18 18 firme delle 19 però per 18 firme, ma non firme di presentazione, firme di candidati. Ma per 18 firme si va, o di candidati si va a rivotare. Poi vuol dire che i candidati erano tutti non coscienti di essere candidati. Che fa? Le mandiamo il conto però per le elezioni nuove? Beh, guardi, il conto delle elezioni lo pagano sempre le regioni, no? E cioè naturalmente noi, i cittadini, per carità. Però io ribadisco che la legalità non è un optional, cioè non è che si può immaginare di fare le elezioni truffando gli elettori. Allora naturalmente tocca al tribunale, d'altronde in Molise il centrodestra ha chiesto di tornare alle elezioni perché c'erano state irregolarità, non cose di questo genere, erano 9 firme di presentazione delle candidature, non di candidati, che erano irregolari, e sono state annullate le elezioni, sono state rifatte. Ora succede spessissimo che si rifanno le elezioni, non è capitato nelle regioni, perché di norma se la differenza di voti è più ampia, sì, in questo caso 9.000 voti, dice, le stanno un po' qua, no? 9.000 voti non si rimanda giù. Certamente io ho rimontato 10 punti al centrodestra, non dimentichiamo il centrosinistra l'anno prima alle europee, che era meno di un anno, tra l'altro 7-8 mesi prima era 10 punti sotto, abbiamo rimontato questi 10 punti, meno 9.000 voti, è normale che mi resti un po' così. Non è questo, le tenta tutte, no, vabbè, io credo che il problema della legalità esista, cioè sono successe le cose più inverosimili in queste elezioni. Vabbè, ma vedremo poi cosa dirà il tribunale. Senta, le chiedo, ma io non ho capito, ma lei è del Partito Democratico ancora? Sì, certo. Sì. Ma lei ha detto che è finito il Partito Democratico in Piemonte, sono dei cacicchi? No, io ho avuto alcune polemiche con alcuni candidati preoccupati, cosa che capisco naturalmente, per il loro posto. Cioè qualcuno ha detto, ma però se si torna alle elezioni io potrei non essere rieletto, in sintesi. Cosa naturalmente vera, però credo che i cittadini e la legalità siano più importanti. Quindi c'è stata una polemica con alcune persone del partito. Il Partito Democratico non è tra i ricorrenti, perché non è tra quelli che non l'ha appoggiata, insomma. Beh, no, in realtà loro non sono stati lesi, cioè sono alcuni partiti, in particolare i Verdi, l'UDC e i pensionati, che sono stati lesi perché sono stati sottratti indebitamente voti a loro con l'inganno. Questo naturalmente, però mi risulta che, voglio dire, lei in un'intervista ha detto in PD il Piemonte è finito, e poi ha fatto un gruppo non come PD, come consigliere regionale. No, io ho fatto il gruppo legato al listino, perché io ero candidato ovviamente di tutta la coalizione, non del PD, ma questo per ragioni tecniche. Con il nuovo regolamento fare l'opposizione essendo tutti in un unico gruppo è molto complicato, cioè diventa quasi impossibile, quindi in accordo anche col PD ho fatto un gruppo che ci serve per avere più spazi in assemblea. No, perché ieri, allora le volevo chiedere cosa ne pensa di Massimo Cacciari, l'ex sindaco di Venezia, che ieri ha dichiarato, ma sul PD quelli del PD non capiscono un cazzo. Questo Cacciari è molto, come dire, immaginativo, ecco, d'altronde è un filosofo, forse questa non è proprio la stessa da filosofo, non è aristotelica, ecco. Aristotelica, però diciamo lui spesso ha di queste uscite. Ma io credo che il PD in questo momento sia oggettivamente in difficoltà, è molto diviso e ha, come dire, la responsabilità quasi da solo insieme a Di Pietro dell'opposizione. Io credo che un ragionamento andrebbe fatto su la somma di tanti piccoli partiti, ma noi abbiamo bisogno di allargare gli spazi politici dell'opposizione. Secondo me il PD non riesce a coprire tutto lo spazio che sta, diciamo, alla sinistra di Berlusconi, e questo è un problema che il PD si dovrebbe porre. La mia impressione è che ci sia un po' di agitazione, di preoccupazione, e forse questa fusione fra DS e Margherita non è ancora totalmente digerita. D'altronde non mi pare che dall'altra parte le cose vadano molto meglio. Forse ci si è buttati in questa razionalizzazione che tutti aspettavano, sì, però del sistema politico, perché tutti eravamo preoccupati di numeri crescenti di partiti sempre più piccoli. Però sto bipartitismo, ecco, però siamo passati da tanti partiti al tentativo di averne solo due o al massimo due per parte, che per il momento non pare funzionare molto bene né nel centrodestra né nel centrosinistra. Tuttavia il PD resta la nostra unica speranza, e quindi non bisogna, per chi è naturalmente di sinistra, bisogna aiutarlo piuttosto che criticarlo. Naturalmente anche criticarlo si fa delle cose sbagliate, ci mancherebbe, però sì, non a priori, non quindi ho retto PD e devo dire che io continuo a confidare che supereremo la fase iniziale difficile della fusione. Chi invece non ha passato il turno, e con questo la ringrazio, la saluto, è l'Italia. L'ha vista lei, le interessa il calcio? Purtroppo è stata veramente desolante. Una disfatta. Colpa di Lippi? Io non sono abbastanza esperta di calcio. Ma dia la colpa a Lippi, chi se ne frega. Sì, io poi dico colpa dei giocatori che non corrono abbastanza. Quello sì, in campo poi non ci mi va. Mi sembra Lippi che si risparmino troppo. Ecco. Si risparmino. Io non, personalmente, quando faccio le mie battaglie, non faccio così. Va bene. Cerco di non risparmiarmi. Cari giocatori, prendete esempio da Mercedes Bresso. Grazie, buona serata, ovviamente. Mercedes Bresso. E allora abbiamo sentito, ovviamente vi terremo aggiornati, 22 minuti, 800240024, i titoli del TG1. Italia fuori dal mondiale al primo turno, brutta partita, squadra senza anima, azzurri sconfitti per 3-2 dalla Slovacchia. L'amaro addio di Lippi, tutta colpa mia, Gattuso, noi cavalieri della vergogna, la delusione dei tifosi, città deserte durante la partita. Le regioni pronte a restituire le competenze. Tremonti, scelta non politica ma per il bene comune. Tensione alla Camera sulle fondazioni liriche. Confindustria, Italia fuori dalla recessione. Rivista al rialzo le stime di crescita, più 1,6% l'anno prossimo. Barcellona, gruppo di ragazzi travolti da un treno ad alta velocità, 12 morti, attraversavano i binari per andare in spiaggia. Incidente sul lavoro a Cesena, crolla il braccio di una gru, muore un operaio, ferito in modo grave il figlio. Mare pulito nel nostro paese, balneabili quasi 5.000 km di coste, il 96% di quelle controllate. Presentato oggi il rapporto del Ministero della Salute. Consultando il portale acque.it potremo sapere dove il mare è più blu. Sto rivedendo il gol di Quagliarella del 3-2, un gol fantastico. Peccato che, cioè, quello era quello del 2-3, ma non è servito niente. Proprio Quagliarella adesso sta parlando anche a Sky. Sentiamo che dice. Comunque io davanti avevo dei grandi giocatori che in Italia fanno la differenza, perciò io sono rimasto al mio posto e non si lamenta colui che non ha mai giocato, solo oggi ha fatto due gol. Vabbè. Luigi dalla provincia di Lecce, buonasera. Pronto? Sì, sì. Luigi. Sì, buonasera. Ascolti, io sto chiamando per il fatto dell'accordo della Fiat, del referendum, sì, che c'è stato. Sì. Però un paio di spunti li vorrei dare anche a voi, insomma. Sentendo la trasmissione ieri, ho sentito che dell'8 per mille che viene destinato dai contribuenti italiani alla Chiesa Cattolica, più o meno il 20% effettivamente va a finanziare delle opere in tutto il mondo, no? Di aiuti ai bisognosi. Sì, sì, ecco, e che c'entra con la Fiat questo? No, ti spiego solo uno spunto perché mi è rimasto da ieri questo discorso. Sarebbe bello che la Gcom agisse per pubblicità ingannevole a questo punto, visto che la pubblicità dice col tuo 8 per mille noi aiutiamo i poveri del mondo. Vabbè, il 20%, l'80% addirittura, vabbè. Sì, e che c'entra con la Fiat però? Adesso veniamo alla Fiat. Vabbè, approfittiamo di questo collegamento. Sì. Seconda cosa, io ho tifato Italia, ma ho dato Lippi perché l'Italia comunque... Ho capito Luigi, però lei ha detto voglio intervenire su Pomigliano, adesso non mi faccia, se no mi faccia il furbino, no? Anch'io vorrei parlare di 50 cose, però... Mamma mia, veramente. Io per esempio agli amici, ai connazionali della Padania, vorrei che dicessero ai loro elettori come mai... si è passati dall'8 luglio 98 quando scrivevano alcune cose sul loro giornale su Berlusconi. Adesso hanno cambiato. Vabbè, siamo arrivati a questo. Luigi, che le devo dire? Aspetti un attimo, c'è il TG5 della Fiat, ce lo dirà l'anno prossimo. Dai, il TG5. È tutta colpa mia, abbiamo giocato col terrore nelle gambe e nel cuore. Evidentemente non ho preparato la squadra a dovere. Marcello Lippi si assume tutte le responsabilità dopo la disfatta azzurra con l'Italia fuori dai mondiali al primo turno, come non accadeva dal 1974. Contro la Slovacchia, una squadra incredibilmente assente fino a un quarto d'ora dalla fine. Poi l'inutile rimonta per 3-2. Gattuso, ci faranno cavalieri della vergogna. Quattro anni fa conquistavamo la Coppa del Mondo ed eravamo campioni. Oggi la lacrime in campo, rabbia e delusione dei tifosi per la nazionale fantasma. Un solo titolo del TG5, questo, dal 74 che non uscivamo al primo turno. Lippi, ma che hai combinato? Dal 74 non uscivamo al primo turno. Non la sapevo, questo è un disastro effettivamente, dal 74. Alberto, dalla provincia di Vicenza, buonasera. Buonasera Alessandro. Eccoci. A parte che è stato più importante l'intervento di qualche minuto fa della signora Maria riguardo del nuovo ministro, con la quale concordo completamente, pur avendo votato Lega, io avevo una preghiera da rivolgere per una banalissima domanda, sempre che riguarda il signor Lippi. Se qualcuno di voi, a nome mio, visto che io non lo posso materialmente fare, chiedesse a Lippi cosa in pratica intende fare nell'assumersi le sue responsabilità. E cosa dovrebbe fare? La solita niente. Parola. Vabbè, ma niente, Alberto. Alberto, niente di concreto. Cioè dire criticate me invece di criticare. Che poi no, non deve essere neanche bellissimo essere adesso per un mese, diciamo, bastonato, tra virgolette, con editoriali, con hai sbagliato tutto. Questo, che responsabilità deve prendersi? Cioè che dovrebbe fare? Appunto a me pare sempre la classica frase detta tanto per dire. Che dovrebbe fare? Si detraga un po' del suo stipendio, lo dia, che so, alla Federcalcio, lo dia alle varie squadre che anche lei i soldi, Alberto. Responsabilità, si tolga un po' di stipendio, va bene, altrimenti però al vento. Grazie Alberto, togliere lo stipendio a Lippi. Le 20:10, eccoci qua tutti sull'Italia. Stasera vi interessa? Stasera c'è Danimarca Giappone e Camerun Olanda. Cioè, chi se ne frega ormai dei mondiali? Questo è il vero dramma, cioè solo gli appassionati sportivi ora. Francesca da Roma, buonasera. Buonasera. Ha visto la partita? Naturalmente, sì. Disastro. Sì, un disastro, una partita assolutamente poco appassionante. Io volevo, mi è venuta voglia di chiamare quando ho sentito un suo commento, diceva sì, arrogante, Lippi, dalle stelle alle spalle, il calcio. Sì, un po' arrogante caratterialmente, ma ci sta bene, cioè di quello che sa sempre, no? Sì, ma è sempre quello che deve dire. Come dire, il punto di questa conferenza stampa, di questo pietismo un po' inedito, no? Cosa avrebbe dovuto dire Lippi in conferenza stampa? No, ma non su questo ha fatto bene, mi assumo le responsabilità, io infatti non lo critico per questo, dico... No, ma voglio dire, è una cosa di una banalità disarmante, no? Nel senso, sa che da domani è sottoposta alla pubblica gogna, che ha preso 5 milioni, è già congedato, ha detto... Ma guarda che Francesca, io non so se lei segue il calcio con passione o spesso, cioè ha mai sentito da un calciatore, da un allenatore finita la partita una frase che sconvolge per filosofia, no, per cultura, cioè si dicono queste banalità da sempre finito la partita di calcio, sempre le solite cose. Appunto, forse sarebbe stato meno banale dire io ho 29 anni, voglio dire, mi interessa il calcio più o meno quanto i documentari sulla savana, però so perfettamente che il figlio di Lippi è procuratore di Via Quinta, che Via Quinta è stato un incapace e questa è politica. Questa è una cricca. Cioè le convocazioni in base agli interessi di cricca. La convocazione in base agli sponsor, sono partiti dei giocatori che sono evidentemente non in forma. Però quattro anni fa ci ha fatto vincere i mondiali, allora. Che... 4 anni fa ci ha fatto vincere i mondiali, ma non ha convocato Buffon, che è partito per andare in Sudafrica con un'ernia che mi pare complicato che gli sia venuta in Sudafrica. Andrea Compirlo che non era in forma, con una squadra di 32 anni, a cui è chiaro anche a un bambino di 6 anni che i 23 anni gli danno le piste dal punto di vista fisico, cioè questo è chiaro. Va bene, Francesca, insomma Lippi vedete già è sotto la gogna, vabbè, ma è giusto, cioè è giusto sportivamente, adesso si beccherà lui tutti gli improperi degli italiani, anche se poi sono i giocatori che vanno in campo e sinceramente ho visto i giocatori pietosi, certo li ha convocati lui, però ripeto, non è che c'erano questi, non abbiamo Messi a casa, non abbiamo Luis Fabiano, non abbiamo Kakà, non abbiamo questi giocatori, cioè non ci sono in Italia. Dai, Pietro da Roma, buonasera. Pietro, eccoci. Volevo fare un'osservazione battutaccia, visto che col calcio si può fare. Dunque, ai tempi di Romano Prodi, del governo del centrosinistra, si vincevano i mondiali, non c'erano problemi nella finanza mondiale, non cadevano le torri gemelle, non c'erano i terremoti dell'Aquila. Adesso sono un po' preoccupato per me, che credevo, su promessa di Berlusconi, che nel 2010 togliessero il bollo auto perché stava nel suo programma di governo. E invece temo che questo, tra virgolette, sfortuna non ci consentirà di avere questo beneficio, questo ulteriore balzello del bollo auto. Vabbè, che devo dirle? Grazie Pietro da Roma, lasciamo magari stare l'11 settembre o le tragedie come l'Aquila, ed è l'11 settembre, la seguo sul calcio come battutaccia, con Prodi vincevamo i mondiali, con Berlusconi no, e va bene, anche questo. Giuseppe da Modena, buongiorno, eccoci, buonasera. Buonasera, dica. Cruciani. No, Cruciani è ancora sullo yacht di Briatore, ma torna. Ma torna tra poco. Intanto complimenti per la trasmissione, che è interessante. Diciamo che stasera affrontiamo un tema abbastanza leggero, che è la nazionale e Lippi, ma abbiamo di fronte una persona molto intelligente, capace intanto, no? Ed è molto brava a pianificare la sua carriera. Quindi lui cosa ha fatto? Si è fatto, magari, voglio dire, sapeva già di essere di non essere più l'allenatore della squadra di calcio italiana, quindi che gli andasse bene, magari se vinceva anche la Coppa o vinceva i mondiali, lo facevano santo. In questo caso si prende la responsabilità e non ha nessuna, se la si toglie un po' senza umiliazioni, no? Ma è un'umiliazione, non è un'umiliazione. Ma sì, cosa crede? Che l'attenderanno a Fiumicino con gli allori, i fiori? No. Comunque è un po' un'umiliazione, come personaggio, come allenatore, che è appunto questo, bravo, ha perso e insomma subirà le sue conseguenze. Le 20:18 minuti, eccoci qua, 800 24 00 24. Vabbè, sembra che l'unico tema sul quale vogliate intervenire è la nazionale, la disfatta di Lippi, il tracollo di Lippi. L'abbiamo ricercato da mezza Italia, perché tutti adesso non vogliono sentire che ne pensa Matteo Salvini. Buonasera, eccoci. Buonasera a tutti, soprattutto a chi è in macchina come me. Il mio tono è un po' dimesso, è da lutto sportivo. Anche il mio. Sono onestamente e francamente dispiaciuto per i tifosi, per l'allenatore, per quelli che sono andati in campo a far finta di giocare, proprio no. Neanche un minimo di rimpianto. Matteo Salvini della Lega, eurodeputato, direttore di Radio Padania. Prima vi abbiamo un po' saccheggiato, abbiamo mandato in apertura un po' di file, un po' di ascoltatori, quello che faceva finta di piangere per l'Italia che perdeva, quello che tifava Slovacchia, quello... Come è andata? Com'era il clima? Ma noi siamo partiti, come facciamo da tanti anni, anche quando gioca il Milan, l'Inter, la Juve, sul gioco del calcio, a divertire e a divertirci. È ovvio che la maggior parte degli ascoltatori, anche di Radio Padania, tifasse per l'Italia, però devo dire onestamente che dopo le partite col Paraguay, la Nuova Zelanda e la Slovacchia, l'entusiasmo si era di molto affievolito, e quindi era più facile gridare forza Slovacchia, quantomeno per simpatia per una squadra sconosciuta fino all'altro ieri, visti i Cannavaro, i De Rossi e quant'altro. Ma cos'è questa storia che per lei la Padania batterebbe la Slovacchia? La Padania, quella che è campione del mondo delle nazioni senza nazione? La nazionale padana di casa, è chiaro che la Padania come Stato non esiste, non occorreva Gianfranco Fini per ricordarcelo, peraltro 15 anni fa non esisteva neanche la Slovacchia, Quindi la Slovacchia che non esisteva oggi ha battuto l'Italia. cioè avremo... perché io quando andavo a scuola al liceo prima del 93 studiavo la Cecoslovacchia, sì, sì, e sì. Poi ognuno è andato per la sua strada. Quindi tra due mondiali vedremo la Padania. Ma se tanto mi dà tanto, chi lo sa. So che per certo anche il Varese neopromosso in Serie B o il Brescia neopromosso in Serie A probabilmente avrebbero messo in campo più cuore, più anime, più classe dell'Italia. Intanto oggi. Salvini, io intanto voglio fare provare un gioco tra poco, ma intanto dichiarazione ANSA del deputato del PD Gian Claudio Bressa, lo conosce? Lo conosce? Non ho il piacere. Sono intollerabili quando commentano la politica, se poi parlano di calcio Calderoli e Salvini sono addirittura insopportabili. Ma magari è anche interista l'onorevole Bressa. Così no, ce le ha tutte, no, ce le ha tutte lui. No, no, non penso. No, ma noi abbiamo cercato di ridere anche su quello che è un gioco. Io capisco che in Italia si può parlare male del Papa, del Presidente della Repubblica, di comunque altro, ma mettere in discussione la nazionale no. E quindi abbiamo colto l'errore e ne faremo tesoro, però scherzare penso sia legittimo, soprattutto vista, ripeto, io ho 37 anni, un'Italia così... E così mal guidata e così mal assortita, senza i Balotelli, è un disastro, Totti, Cassano, un disastro. Gli Ambrosini, Boriello, non l'ho mai visto. Intanto Matteo Salvini, voglio provare una cosa in diretta, dai, proviamo a chiamare il senatore della Lega Pier Giorgio Stiffoni, questo lo conosce, sì, senatore. Grande trevigiano. Adesso proviamo a chiamarlo, vediamo intanto se squilla, facciamo proprio una roba così da radio anni 70 pirata, no? Vediamo se squilla e vediamo. Cosa ci fa cantare qualcosa? Sta squillando, zitto Salvini. Prego. Sentiamo. Pronto? Pronto? Senatore Stiffoni. Pronto? Senatore Stiffoni. Sì. Siamo in diretta su Radio 24, c'è Matteo Salvini dall'altra parte della diretta. Sì. Matteo Salvini lo conosce? Sì. No, non ho ascoltato la radio. Senatore Stiffoni, lei è il senatore Stiffoni? No, senatore Gennaro sono io. Ah, e allora abbiamo sbagliato. Abbiamo sbagliato. Senatore Gennaro, non c'è problema. Ma che numero avete fatto, il senatore Stiffoni? Che numero avete fatto? Non lo so, il senatore Gennaro. La ringrazio, senatore Gennaro, ma stavamo cercando. Che facciamo? Ci cambiamo i cellulari tra senatori? Non so, proviamo adesso a sentire se il senatore Stiffoni col numero giusto lo recuperiamo. Intanto, che ha detto il senatore Stiffoni? No, ma tra poco lo teniamo quando se lo troviamo. Proviamo adesso col numero giusto. Salvini, ma qua ci dicono gli ascoltatori. Lippi, che vuol dire? Si assume le sue responsabilità, ora deve pagare, c'è chi dice togliamogli una parte dello stipendio, ma che vuol dire? Per me questa è una gran cazzata, cioè, io per Lippi provo tutta l'antipatia calcistica e sportiva ovviamente possibile che possa provare nei confronti di un allenatore che secondo me è estremamente fortunato quanto estremamente arrogante, ha fatto una selezione per la nazionale in base alle sue simpatie e non in base ai meriti. Sugli stipendi dei calciatori e degli allenatori, quando come Lega abbiamo provato a dire qualcosa, si è aperto il cielo anche lì, quindi buone vacanze a Lippi, cosa gli devo dire? Che si rilassi un po', visto che era così pompato fino a settimana scorsa. Vediamo intanto se il senatore Stiffoni l'abbiamo recuperato. Stiffoni. Sì. Ah, ecco, abbiamo fatto il numero giusto, lei è il senatore Stiffoni. Buonasera. Ce lo può giurare, sì. No, perché abbiamo sbagliato numero prima. C'è Matteo Salvini, vi conoscete, no? Penso proprio di sì. Ciao Pier Giorgio. Eccoci. Ciao caro, ciao Matteo. Eccoci qua, senatore Stiffoni, lei ha dichiarato questo poco dopo l'eliminazione. Non era mai successo? No. Durante la partita. Ah, durante la partita. Vabbè, cioè no. Lei ha detto gli italiani per tornare in dopo Italia, la nazionale per tornare in Italia dovrebbe prendersi altro che l'aereo, neanche la business class, la transafricana, se esistesse, non lo so, esiste la transafricana? No, non penso che esista, ma sarebbe una maniera per meditare. Per meditare. E cioè che fanno? Sì, tutti in torpedone? No, non in torpedone, non c'è la transiberiana. In treno? Che 10 giorni da Mosca a Vladivostok. Sì. Ecco, se ce ne fosse anche una transafricana, forse avrebbero tempo in 10 giorni di pensare a tante cose. Tipo? Tipo, fare un esame di coscienza di quanto sono pagati e quanto poco rendono. Del fatto che forse Lippi avrebbe dovuto essere meno burioso e ad ascoltare di più qualcuno che gli dava dei suggerimenti forse azzeccati per questa, per questo gruppo di giocatori. Capisce bene che io ho visto la partita, ma lei tifava Italia, tutte, ti fa Italia? Ho visto tutte le partite tifando Italia, sì, ma guardi, in maniera assolutamente disinteressata. Ho visto le altre due partite, una peggio dell'altra, mi aspettavo qualcosa di meglio. Ho visto il primo tempo, non volevo neanche vedere il secondo, e dopo mi sono deciso a fare questa nota. Cioè, lei al 2-0 ha fatto sta nota, ma guardi che se facevamo tre pari erano volatili per diabetici. Ormai poi... si capisce come va a finire una partita, i miracoli non esistono. I miracoli esistono. Salvini, dopo il 2-0 si è preso una responsabilità Stiffoni. Se segnavamo poi 3-1, tre pari, che succedeva? Stiffoni si rimangiava le agenzie, no? Adesso l'Italia avesse pareggiato come Radio Padania, avremmo potuto fare un'altra radiocronaca, perché adesso dobbiamo fare un sondaggio fra gli ascoltatori per capire quale altra nazionale adottare a questo punto. L'Argentina, la Germania, che ne so. Vabbè, intanto, allora, siamo con Matteo Salvini. Il punto fondamentale l'ha richiamato giustamente Calderoli. Finché avremo delle squadre di calcio in Italia che sono per 11 undicesimi di stranieri, è difficile fare dei vivai che possono fare una nazionale. Gli stranieri e la nazionale, e allora questo è il punto, l'ha detto poco fa il ministro Calderoli, infatti io non lo so, volevamo provare a chiamare anche Calderoli, non so, il ministro Calderoli, non lo so, facciamo una convention della Lega, sarebbe una convention della Lega, infatti, no? siete quelli che insomma avete animato più il dibattito, la questione degli stranieri, Salvini, io mi ricordo Galli, Tassotti, Maldini, Colombo, Filippo Galli, Baresi, Donadoni, Ancelotti, Virdis, Gulli, Tevani. Uno straniero. Grande squadra, grandissima. Io adesso anche il Milan, quando cambiano giocatori sei volte all'anno, o l'Inter, non parliamone, la Juve, si fa fatica a star dietro alle squadre. E poi io ho un bimbo di 7 anni, che modello c'è, che esempio è? Adesso non è che il calcio debba essere educativo, però un tetto al numero di stranieri in campo... Buon Dio, penso che farebbe del bene soprattutto ai ragazzini che cominciano a giocare adesso. Un tetto di stranieri in campo, vabbè. E allora, che dobbiamo fare? Io vi ringrazio, Matteo Salvini, e per Giorgio Stiffoni. Vediamo un po' se partiranno con la transafricana. Io penso che prenderanno l'aereo, no, una bella prima classe, credo di sì. Vada a Fiumicino, li attenda lì, magari Stiffoni. Non li attende a Fiumicino, no? No, non attendo a Fiumicino nessuno. No, per carità. Va bene. Io a Fiumicino arrivo soltanto per andare a lavorare in Senato. Va bene. Vi ringrazio allora per essere stati con noi, Matteo Salvini, per Giorgio Stiffoni della Lega. La Lega in questo momento così, è al momento di se possiamo dire, anche gloria, no? Gloria calcistica dopo tutte queste polemiche. Sono le 20:33 minuti, la Zanzara, siamo in diretta fino alle 21 e poi Carlo Genta prenderà il testimone, perché insomma vi riverserete lì tutti i vostri sfoghi da fare contro questa orrenda nazionale italiana, che davvero è stata penosa, diciamo la verità, è stata penosa dal punto di vista del gioco. Siamo usciti dal 1974, non uscivamo al primo turno, un disastro. Giuseppe da Modena, buonasera. Sì, buonasera. Eccoci. No, volevo finire l'intervento di prima. Sì, sì. Dicendo, diamogli una punizione a Lippi. Lo teniamo altri 4 anni. Col diritto di licenziarlo in qualsiasi momento. Cioè, magari allenare l'Italia, me l'ha fatto abbastanza danno. Ancora per 4 anni, lo obblighiamo. Lo obblighiamo. Ma pagato, così. Magari rende il meglio. Vabbè. Va bene, grazie Giuseppe per la conclusione del suo intervento. Paolo dalla provincia di Milano, buonasera. Buonasera. Eccoci. Buonasera e complimenti per la trasmissione. Sì, dica. Io probabilmente in modo elementare, però secondo me è importante parlare di responsabilità, meritocrazia e giustizia. Responsabilità non soltanto di Lippi, ma anche di chi l'ha messo lì. Alla fine qualcuno ha scelto lui perché pensava fosse la persona giusta. Vabbè, ha sbagliato. Lui ha scelto i giocatori e quindi ha sbagliato lui nello scegliere. Ho capito, ma che si può fare? Cioè, lo sport è così: si vince o si perde, o si fanno a volte si fanno dei trionfi, a volte si fanno delle figuracce di beep. Infatti, per questo parlavo anche di meritocrazia. Magari ce ne fosse sempre, in ogni occasione, sempre. Cioè, meritocrazia che vuol dire? ha sbagliato, non sono stato in grado, ho trovato sul campo qualcuno più bravi dei giocatori italiani, e sono passati gli altri, hanno sbagliato e hanno pagato questa sconfitta. E vabbè, bene. Magari fosse così per ogni cosa. Nella vita, dice, in tutto. Certo. Ma se si voleva comprare la partita, secondo qualcuno, a volte neanche, capisce che neanche lì c'è la meritocrazia, mannaggia. Niente. Va bene, Paolo, la ringrazio. Salvatore da Pavia, buonasera. Buonasera. Dica, Salvatore. Io spero di non attirarmi le invettive di tutti gli italiani, ma vorrei parlare d'altro. Ma benissimo, meno male. Finalmente. Voglio dire, io ovviamente ero uno di quelli che tifava per l'Italia, ci mancherebbe altro. Ma visto che è andata così, ho detto bene, così adesso ricominciamo a parlare di cose serie. Chi lo sa, adesso ci sono i processi, controprocessi. Bravissimo. Adesso fra qualche minuto, fra qualche ora sapremo se Dell'Utri potrà avere un ministero oppure no, per esempio. Perché se dovesse essere condannato avrà sicuramente un nuovo ministero. In appello, perché lo voleva ricordare gli ascoltatori, Dell'Utri oggi si sono riuniti in Camera di Consiglio i giudici che devono decidere sulla imputazione, associazione esterna, insomma, alla mafia, condannato in primo grado, c'è l'appello, chissà però quanto potrà durare la Camera di Consiglio, non è? Magari lo sapremo domani mattina. Magari tra un minuto, ma che vuol dire? Se viene condannato è l'appello. Se viene condannato, certo, allora abbiamo avuto un primo grado in cui è stato condannato a 9 anni. Sì, un appello per cui sono stati richiesti 2 anni in più, 11 anni, adesso vediamo come va a finire. E dico, se dovesse essere assolto, basta, lui si ritira, perché a quel punto ha raggiunto il suo scopo, perché lui voleva si è candidato, lo ha ammesso lui di essere in politica per non andare in galera. Ha raggiunto il suo scopo, come quello di tutti che sono imputati in un processo, raggiunge lo scopo di dimostrare la propria innocenza. Naturalmente. Se invece dovesse essere condannato, a quel punto è un candidato perfetto per un nuovo ministero. Sì, a che cosa? Ma che ne so, potrebbe essere tipo per l'attuazione del programma della P2 con concorso interno della mafia. Con sottosegretario, magari Cuffaro, per esempio. Addirittura, vabbè. Questa potrebbe essere un'idea. Salve. Invece, se ho ancora qualche secondo, volevo ricollegarmi a quello che diceva il signor Abresso, che ho sentito prima in diretta, che ha detto una cosa che io condivido pienamente, cioè che queste regionali ne sono successe di tutti i colori. Liste che sono state ammesse così, insomma, firme raccolte. L'unica cosa che per ora di irregolare palesemente è stata fatta è quella del Lazio, dove infatti non sono state accolte le firme. Guardi, io sono convinto personalmente che anche in Lombardia le firme siano state raccolte con molta approssimazione, ormai è acqua passata. Da chi? Però ce ne sono due ancora cose illegali che si dovranno compiere, cioè dovranno essere giudicate. Ma da chi, scusi, secondo lei sono state raccolte le firme regolarmente in Lombardia? Insomma, se lei ricorda, i radicali hanno presentato un ricorso per le firme del PDL in Lombardia. Poi va bene, il ricorso è stato rigettato, era tutto regolare. Però guardi che ci sono, se lei va a leggere i dettagli, c'erano delle firme autenticate. Ho capito, che erano però Salvatore, strane. Salvatore, mi perdoni, se Dell'Utri è condannato, se è innocente, perché se il ricorso dei radicali è accettato, se è respinto bisogna andare a vedere i cavilli, perché forse in realtà c'è qualche stranezza, ha sempre ragione lei, insomma. Cioè le sentenze non è che possono andare bene solo quando. Detto questo, concluda. Su questa ragione. No, la conclusione però è che ci sono ancora due presidenti di regione che si trovano in quella posizione in modo non legale, che sono Errani in Emilia Romagna e Formigoni in Lombardia. Sì. Ok, come lei sa, penso che lo sappia ormai. Per la vicenda del quarto mandato consecutivo di Formigoni. Ma guardi che è già stato richiesto la non candidabilità di Formigoni per il quarto mandato ed era stata respinta questa cosa, cioè con un'interpretazione, e infatti Formigoni è stato. Ma comunque guardi che ci sono due ricorsi, uno presentato al Tribunale di Milano e l'altro quello di Bologna. E vedremo come va. Ci sarà l'udienza l'8 di luglio e vedremo che cosa decideranno i giudici. Va bene, allora sarà il 17 ottobre quello a Bologna è informatissimo dalle procure perché italiane. Sono uno di quelli che ha presentato, io faccio parte del Movimento 5 Stelle, perfetto, siamo gli unici che abbiamo presentato questi ricorsi, perché ovviamente PDL e PD avendone uno ciascuno hanno fatto pari e patta, tutti gli altri se ne sono fregati e noi invece l'abbiamo presentato e saremo in piazza a informare i cittadini l'8 perfetto. Luglio. Perfetto, noi ci siamo segnati sull'agenda, 1 luglio Piemonte, poi il TAR, poi 8 luglio Formigoni, poi ci siamo segnati anche Dell'Utri che adesso sono in Camera di Consiglio, ma decideranno i giudici e vi terremo ovviamente informati come fa sempre Radio 24. Grazie Roberto da Milano, buonasera. Oh, buonasera. Eccoci. Dica. sono contento perché a 60 anni riesco a partecipare una volta a una trasmissione. Oh, finalmente. Cioè, da 60 anni che ci prova, no? Da 30 no, anni. No, non ci ho mai provato, però mi sono allora veramente seccato di sentire. Io tengo a precisare che io di calcio sono un profano. Sì. Però seguo determinate cose, mi piace vedere una partita giocata bene, insomma no, mi diverte a volte, è un bello spettacolo. Però vorrei arrivare alla nazionale per gradi, mi dia per cortesia il tempo di dire ciò dai, che penso. In un minuto, faccia dei gradoni. Ma guardi, glieli faccio velocemente. Allora, prima cosa, la violenza negli stadi. È uno schifo. Ma a parte lo schifo, però sono schifato dalle trasmissioni che, non dovete, poi ti fanno vedere la moviola e ti dicono, avete visto cosa hanno fatto? E beh, che c'entra? Quello mica scatena. Non è che un rigore non dato deve scatenare la violenza negli stadi. Però fomenta. Seconda cosa, la storia della nazionale, tutti siamo commissari tecnici, no? Però bisogna essere là. Lippi non è la mia simpatia, glielo garantisco. Però al parlare di Balotelli e di Cassano parlano solo di Balotelli e di Cassano con tutti i giocatori che abbiamo. Ma sì, ma infatti con Balotelli e Cassano non vincevamo i mondiali. Probabilmente forse passavamo un turno, ma forse no, forse uscivamo lo stesso. Poi Roberto. E poi un'ultima cosa. Non condanno Lippi per un semplice motivo. Perché è calcio. Perché io ho visto una partita da paura per un'ora. Dopodiché mi sento preso in giro perché lei mi deve spiegare, e questo me lo deve spiegare lei o il capo Genta, come mai in un quarto d'ora sta gente ha imparato a giocare. Ma non è che ha imparato a giocare, alla fine ci hanno messo, hanno visto che insomma correva il tempo, bastava un gol, hanno iniziato, dovevano fare un gol, ci hanno messo tutto e la Slovacchia un po' si è presa paura, sul 2-0 ha difeso e allora abbiamo segnato, poi abbiamo preso un gol veramente che non si vede neanche da una rimessa laterale, forse in terza divisione si vede. E poi hanno buttato tutto quello che avevano, pochissimo per la verità, e hanno cercato di rimontare, ma non ce l'hanno fatta. Poi Carlo Gente qua è desaparecido, doveva venire qui ad aiutarmi un po' a rispondere a tutti questi del calcio, che è il suo mestiere. Qua sarà andato a mangiare, pronto per dopo. Raffaella dalla provincia di Verona, buonasera. Buonasera Radio 24, buonasera ai telespettatori. Niente, io ho chiamato perché prima ho sentito quel signore che ce l'aveva molto con i leghisti, dicendo che siamo della gente di basso livello. Quello di Napoli, credo. Sì, esatto. Allora, ricordo bene che di basso livello probabilmente chi... Basso livello culturale, diciamo. Culturale. Non acculturati. Allora, io milito nella Lega da 18 anni. Conosco il senatore benissimo. Se ha fatto questa sparata è perché è una persona realista, come quando ha avvisato che ci sarebbe stata l'invasione cinese, quando ha avvisato che comunque l'Islam sarebbe stato un nostro problema. E tutto questo. E l'Islam è un problema? Percepisce come un grave problema? Sì, caspita, è un problema. Adesso io non voglio entrare in questo merito, voglio soltanto dire comunque io sono un'imprenditrice, non mi sento per niente a basso livello. Oggi ho lavorato 10 ore, ho ascoltato la radio e la partita. Non sono stata contenta di come si sono comportati, ma d'altra parte se il senatore ha detto ci compriamo la partita probabilmente ha valutato l'altezza e la qualità del gioco che faceva. Allora, lei quando parla al senatore si mette sull'attenti? Io quando parlo di senatore ho un grande rispetto perché l'ho il senatore, per chi non lo sapesse, il senatore è Bossi, cioè non ce ne sono altri, è uno. Il condottiero della Lega, mi scusi, il senatore è lui. A Pontida è lui che fa la linea guida, che allora dovrebbe dire se dice il senatur, capiamo tutti che il senatore. Io sono veneta e vorrei anche parlare il dialetto veneto, visto che dicono anche che il veneto è una lingua. Che cosa allora, visto che devo andare al traffico, cosa direbbe Raffaella? Devo salutarla a Lippi in Veneto. Ci dica cosa le viene dal cuore. Oh, beh, guarda, mi dispiace proprio tanto, Stella Bella, ma dovevi vedere un po' i giocatori com'erano. Va bene, la ringrazio Raffaella. 20 e 46 minuti, oh, Carlo Gente, eccoci qua. Dove sei andato a mangiare? Che devi dire? Ma che a mangiare? Si mangia in questi giorni? Non si mangia, a digiuno, a stecchetto. Giuseppe da Latina, buonasera. Buonasera, dottor Mila. Eccoci. Grande rassegna stampa. Questo volevo solo dirlo così al mattino. Sì, io la seguo sempre. Grazie, dica. Vado al lavoro con lei. Allora, volevo dire solo una cosa. in relazione mondiali, ma non dal punto di vista del calcio, della partita, perché io ci capisco poco, ma dal punto di vista del nostro ministro Brunetta, che ha fatto quella sparata allucinante quando poi abbiamo visto sulle reti televisive che la sparata è si lavora. I dipendenti lavorano. Il dipendente da 1200 euro al mese, io fortunatamente guadagno un po' di più. Ma lei è un dipendente pubblico? Sì. Ah, ecco. L'ha vista la partita? Sono un dirigente. No, non l'ho vista. Ma perché non mi interessa. Ah, va bene. Maradoneta, cioè, mi piace l'atletica, ma a prescindere da questo. Dalla sparata che ha fatto, e poi abbiamo visto in televisione che i nostri, abbiamo sentito e visto poi in televisione che i nostri deputati, senatori, maxi schermi e quant'altro si sono fatti la... Ma secondo lei, ma non siamo in mano a una banda di pazzi governati? Non esageriamo, capisco. Guadagna migliaia e migliaia di euro e poi all'impiegato che ne guadagna 1.200. Forse gli dico non guardate la partita, si lavora. Di partita, risolviamo i problemi. Guardi, le faccio rispondere, Giuseppe da Latina. Grazie, Giuseppe. Le faccio rispondere da Carlo Gente, il suo cavallo. Allora, il suo cavallo di battaglia si è arrabbiato, allora, Carlo, poi ti arrivavano insulti di tutti i tipi. Ieri sera la cosa più gentile che mi hanno scritto è stata: vai a farti fottere. Vabbè, che è sempre meglio di quello che Anelka ha detto a Domenech. Ha ragione, in parte l'ascoltatore, ma non ne farei anche qui una questione di soldi, salari e stipendi. Semplicemente mi è sembrata tutta una pagliacciata, perché sono un sacco di modi, volendo anche più idioti, di perdere del tempo, come viene fatto molto spesso negli uffici pubblici. Quindi mi è sembrata l'ennesima cosa molto demagogica Tra l'altro, via il dente, via il dolore, adesso le partite dell'Italia non ce ne saranno più, e quindi sarà contento Brunetta per 4 anni, no? Penso proprio di sì. Ma ci sono altre partite adesso, gli ottavi alle 16, perché magari sono partite che la gente vuole vedere. Se l'Italia passava, giocava alle 16. Che te credi? Meno male che siamo usciti. Walter da Treviso, buonasera. Buonasera a lei e a tutti quanti gli ascoltatori. Ma sono d'accordo con voi che meno male che l'Italia è uscita, perché altrimenti l'Italia... Era paradossale, però mi creda, oggi che siamo al girone eliminatorio, l'Italia si è bloccata. Io faccio l'agente di commercio, sono in giro a sputare sangue per vendere qualche cosa, e oggi l'Italia dalle 16 in avanti era bloccato, e quindi al televisore lei non aveva trovato il traffico per guardare una partita del girone eliminatorio contro la Slovacchia. È una partita dei mondiali, ma non si può bloccare l'Italia perché c'è l'Italia contro la Slovacchia con questi giocatori qua, con questa squadra qua, cioè uno gli passa anche la voglia di guardare. Le faccio conoscere la nostra Laura Marchesi, che esulta al di là del vetro. Lei è un'anticalcistica, però di quelle che l'altro giorno le ho chiesto: vabbè, ma Paolo Rossi chi, il comico? Ma no, è Paolo Rossi il calciatore. Ma chi è Paolo Rossi? Paolo Rossi non sa chi è Paolo Rossi. Lei sa chi è Paolo Rossi? Ma certamente l'abbiamo conosciuto, ci abbiamo gioito assieme. Fa parte della storia di tutti noi, no? Come fa parte della storia di tutti noi questo giorno un po' triste. Certamente c'è stato il Cile, c'è stato l'Inghilterra, la Corea del Nord. I brutti che si può perdere, si può vincere nello sport, perché è una cosa naturale, non si può sempre vincere. Siamo qua col sorriso sulle labbra, domani ci svegliamo e andiamo tutti a lavorare, voglio dire. Quello che mi meraviglio è che noi, parlandone sempre, guardando tutti questi programmi di una schifezza paurosa, televisivi, giornali, arricchiamo questi 4 ignoranti che corrono dietro al pallone. Questi 22 in mutande, questo è un altro. Esatto, 22 in mutande, 22 cretini che ogni volta che aprono la bocca ti fanno cadere tutte le forze. Carlo Gente, grazie Walter. Quando sei uscito non sai quanti dicevano: Lippi ora restituiscono a parte lo stipendio. Il problema vero è che questa storia qui, che non ha precedenti nella storia del calcio italiano, questa vicenda, no, di un commissario tecnico che inizia il mondiale e non c'è già più, no? Ha disarmato un po' tutti, perché in condizioni normali la prima cosa che fai qual è? Togliamogli la panchina, lo licenziamo. Qua, ok, qua non c'è già più, che gli fai? Lo mandiamo con la transafricana. Sai che il senatore Stiffoni prima era con noi della Lega, ha detto facciamoli tornare con la transafricana. Sì. Se ci fosse una transafricana, altro che aereo. Ecco, alla così gogna, le, alla gogna. Patibolo. Sì. No, ma al di là di tutto, poi adesso escono questa storia su cui glisserei dei 22 ignoranti mutande, perché glisserei sul serio. Ma si è partiti dall'Italia che si ferma per guardare una partita fino ai programmi eccetera eccetera, per i quali comunque vige ampia libertà di telecomando, no? Mi pare, e su questo condivido, perché sono cose che non piacciono nemmeno a me, però sul fatto pagare un po' il canone per Costanzo e Galeazzi, questi Costanzo e Galeazzi un pochino mi rode, ma comunque. Io sono imbattuto su questi programmi serali, in parte perché adesso comincio a parlare, finisco alle 11, in parte perché... Attenzione, non li vedo, è che poi li registriamo per sentire quando li sento. Però alla fine su questa storia, insomma, i mondiali, ripeto, fanno un po' parte della storia di tutti noi, tutti ci ricordiamo dove eravamo e cosa stavamo facendo nell'82, tutti tranne Laura Marchesi. Marchesi sono problemi suoi, si ricorderà delle altre cose. No, non era nata, ma poi soprattutto chi è Paolo Rossi? Chi è Paolo Rossi? Questa? Ho trovato la prima persona al mondo che non conosce Paolo Rossi. Paolo Rossi, il calciatore. Un giorno lo chiamiamo e glielo presentiamo. Va bene, ok. Però i mondiali fanno parte della storia di noi, no? Dalla Corea, eccetera. Sono giorni, è un giorno ogni 4 anni molto strano. Quindi insomma, non trovo niente di drammatico sul fatto che oggi si sia guardata la partita. Allora, Paolo da Alessandria, buonasera. Era nata Laura Marchesi, aveva un anno, ci fa sapere, però quindi non poteva ricordare Paolo Rossi. Paolo da Alessandria, buonasera. Buonasera. Dica. Buonasera a tutti. Io sono uno di quei 35 milioni di CT della nazionale, e penso che... Perché sono 35? Siamo 60? Perché le altre sono donne, quindi non sono CT. Le donne non capiscono di calcio, guarda che capiscono di calcio. Donne, ribellatevi, c'è Paolo d'Alessandria che sta... Vabbè, dica. L'ha detto ora che la sua collega non sa neanche chi è Paolo Rossi. Vabbè, quindi... insomma, lei non sa chi è Paolo Rossi. Ma la nostra Valeria Bernardi, che è tecnica, gran tifosa della Roma, è una gran CT. Però Laura Marchesi saprà chi è Beckham. Saprà chi è Beckham. Beckham. Comunque, io volevo ribaltare un po' l'argomento. Era questo. Cioè, tutti questi politici che si scagliano contro Lippi, contro il denaro della nazionale, contro il denaro che danno ai giocatori, ma perché lo fanno? Perché il risultato non è stato commisurato allo stipendio. Perché lo fanno? Per un titolo sui giornali. Certo. E su via. Paolo. Allora scagliamoci anche contro i politici, perché mi sembra che il risultato dei politici non sia commisurato. C'è chi lo fa, adesso ci sono titoli dei giornali anche su questo. Sì, però non c'è lo stesso accanimento. Ma vede, si perde c'è poco. Ma si perde comunque tutto l'anno, soltanto che la gente non se ne accorge o è abituata a perdere. Quindi la nazionale rispecchia un po' quello che succede sempre in Italia. Paolo, il suo è l'ultimo intervento. Intanto dico Franco e Guido dalla provincia di Pordenone e Rimini, se volete tra un attimo, poi Carlo Genta riprende, quindi teniamoci se sono telefonate sul calcio, ovviamente tanto anche la Zanzara parlavamo di altro, ma era tutto calcio, tutti intervenivano sul calcio. Io Carlo ti cedo idealmente la linea, però la vera partita oggi c'è stata a Wimbledon. Tennis, è finita quella partita che è durata 3 giorni, quanto è durata? 11 ore, 12 ore, la partita più lunga del mondo. So che ha vinto l'americano Isner contro un francese. Quanto è finita? Il quinto? 70 a 68, credo. Sembra una partita di basket. 70 a 68, il quinto set. Giocavano in contemporanea all'Italia, tra l'altro. Sì. Poco prima della fine dell'Italia è finita la partita che ha fatto vincere questo Isner. 70 a 68 al quinto set. La partita più lunga della storia del tennis è durata su 3 giorni. 11 ore, credo. Prossimo turno perde 6-0, 6-0, 6-1. Certo, cede subito di schianto. Grazie a tutti, anche a Riccardo Poli in redazione, così come il nostro Francesco Caldarola, il nostro autore. Che dire, do la linea al GR, poi a Carlo Genta. Continuate a riversare il vostro veleno sulla nazionale, tra poco.